all'ultimo minuto Alitalia si è salvata. C'è chi ha dato il merito alla nuova accordata, e c'è chi ha dato il merito alle hostess e ai piloti, e chi ha preferito darlo ai sindacati. E c'è chi ha dato il merito al ruolo diplomatico giocato dal Partito Democratico, e chi lo ha dato invece al capo del governo, e chi manderebbe tutti all'inferno. Ad ogni modo una cosa è sicura, non è più il caso di avere paura. Per ogni male c'è una soluzione, da qualche tempo è sempre la privatizzazione. Hanno privatizzato i treni, gli ospedali, e privatizzeranno anche l'oggi e il domani, e privatizzeranno le piazze di comuni, i colori, i fiori e i loro profumi, e poi sarà la volta della luna e del sole, e privatizzeranno persino le parole, e privatizzeranno la natura e la cultura, proprio come hanno fatto con la spazzatura. E se qualcuno teme e qualcun altro dubita, e se qualcuno dice è andata come è andata, sono tutti d'accordo che la cosa pubblica presto diventerà una cosa privata. All'ultimo minuto Alitalia si è salvata, all'ultimo minuto Alitalia si è salvata, all'ultimo minuto Alitalia si è salvata, all'ultimo minuto Alitalia si è salvata.